476. Arigusta. L'aragosta o arigusta è un crostaceo dei più fini e delicati, comune sulle coste del Mediterraneo. È indizio della freschezza e della buona qualità delle ariguste, degli astaci e dei crostacei in genere, il loro peso è in proporzione della grossezza, ma sempre è da preferirsi che siano vivi ancora, o almeno che diano qualche segno di vitalità, nel qual caso si usa ripiegare la coda della rigusta alla parte sottostante e legarla avanti di gettarla nell'acqua bollente per cuocerla. A seconda della sua grossezza, fatela bollire dai 30 ai 40 minuti, ma prima aromatizzate l'acqua in cui deve bollire con un mazzetto composto di cipolla, carote, prezzemolo e due foglie d'alloro, aggiungendo a questo due cucchiaiate di aceto e un pizzico di sale. Lasciate che la rigusta diaci nel suo brodo e quando la levate sgrondatela dall'acqua strizzandone la coda e dopo averla asciugata strofinatela con qualche goccia d'olio per renderla lucida. Mandatela in tavola con una incisione dal capo alla coda per poterne estrarre facilmente la polpa e se non si volesse mangiare con dita semplicemente con olio agro di limone, accompagnatela con la salsa maionese o con altra salsa piccante, ma potete servirla pur anche con una salsa fatta con lo stesso pesce nel seguente modo. Levate la polpa dalla testa e questa tritatela ben fine con un rosso d'uovo assodato e alcune foglie di prezzemolo. Ponete il composto in una salsiera, conditelo con pepe poco e punto sale e diluitelo con olio fine e l'agro di mezzo limone o aceto.